canale 10, CQ, CQ, CQ, prova, prova. Siamo più fortunati qua, CQ, CQ, CQ 10, CQ, CQ canale 10, Me daba, tío, no me importa peor, tío, para estar hablando, lo cacho. Yo me he ido al sitio,